Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 28. Testo paragrafo 2. Razzon Lekabel. Il desiderio di ricevere con tutta la sua diversità è già lì dall'inizio del suo piano di creazione. E questo desiderio è inestricabile connesso con l'abbondanza che il Creatore aveva, ha e avrà per noi. Eratzon Lekabel è il Cli. E la Shefa è la luce che riempie il Cli. Or e Cli. Questi sono i due elementi nello spirituale. Questo è tutto quel che esiste nei mondi spirituali. La luce dà abbondanza, Shefa. Abbiamo detto, i mondi sono diventati rozzi. La luce diventa più e più ruvida. In un certo senso, questa è la costruzione di un cli. Il ricevere dove può venire un aspetto superiore della luce. Cos'è più delicato, più sottile? Ogni cosa che è più sottile è superiore, considerando il grossolano. Ciò che è superiore è come luce per quel che è inferiore. Il livello non importa. Puoi vedere questo? Quel che è superiore è più raffinato. C'è più purificazione. Ciò che è più raffinato è come luce per l'inferiore. Ma il livello per noi non importa, stiamo parlando circa i livelli spirituali. E come noi abbiamo qui sulla terra tutti i tipi di livelli, così anche nello spirituale. Ogni grado superiore sta considerando il grado inferiore come luce. Il grado inferiore è il Cli. Puoi vedere questo? Ogni cosa sta considerando l'altro, solo nella qualità. Ciò che è per te in questo momento può essere come luce, domani può essere un cli perché stai crescendo. Si tratta sempre di qualità nello spirituale. Devi sempre sapere di dove stiamo parlando. È il superiore o è l'inferiore? Considerando il Cli o considerando la luce. Quando parliamo della seconda sfera Chokmah, è sotto Chokmah c'è Binah. Quindi, ovviamente, Binah è come un Cli considerando Chokmah. E Chokmah è luce per la Binah. Dina è più grezza di Chochma, ma considerando Zeiran Pin, che è sotto Bina, per lui Bina è luce e Zeiran Pin è il Kli. Ogni cosa che è superiore è luce. O or, considerando l'inferiore, il Kli. Luce e Kli. Questi sono i due elementi nelle parole, termini spirituali, concetti spirituali. Cosa significa questo? Per esempio, ho un Kli del livello di Binah. Quale luce entra? La luce di Chochmah entra in Binah perché Chochmah è sopra Binah. Parliamo solo di Kli e cosa riempie il Kli? Luce. I mondi sono l'irruvidimento della luce, e in questi mondi può venire una luce superiore in Sof, la luce senza fine, con tutte le loro varietà. Più inferiore è un mondo, più ci sono velature. Come? Questo perché l'inferiore non ha la forza di vedere il superiore. Cosa significa rompere i kelim? È lo stesso come nel nostro mondo. Sei un po' maldestro e rompi un bicchiere. Anche i kilim possono rompersi. Perché i kilim si rompono? Anche Adamo era un Kli e aveva peccato. Questo è perché il suo Kli si era rotto. È difficile da comprendere, ma in un certo senso il suo Kli era ancora intero. Ma c'era qualche frattura. Questo è il perché sentiva vergogna e si nascondeva. Lui sentì la sua propria nudità, significa la sua basezza, considerando la sua bassezza, considerando il superiore. Come si rompe il clip? È il risultato del tuo egoismo e delle tue azioni egoistiche. Quando ricevi troppo per te stesso, ricevi più di quanto puoi gestire, allora il tuo Kli si rompe. Troppo significa che ti manca la forza. Tu ricevi più di quanto tu possa gestire. Quando tu prendi in più, allora hai la forza. Il Kli si spezzerà. Puoi confrontare questo con qualcosa nel nostro mondo materiale. Tu mangi o bevi troppo. Più tardi ti senti terribile perché era troppo. È lo stesso con la luce. Solo quando io mangio o bevo, di cui ho bisogno, i kilim non si spezzeranno. Ho il desiderio per qualcosa e sono soddisfatto con quel che ottengo. Questo significa che io ricevo all'interno della mia forza e il Kelim non si rompe. E i Kelim non si rompe. Il singolare Kelim è plurale. I Kelim non si rompe. Non si rompono. Questo è il ricevere altruistico, la rottura del cli significa che ho ricevuto troppo. Ogni volta che ricevi di più di quanto tu puoi gestire, hai la sensazione di rottura. Lo stesso quando hai mangiato o bevuto troppo, più tardi hai una sbornia. E questa è la rottura dei chili. Non solo nel nostro mondo c'è la rottura di Kilim, anche nel mondo spirituale c'è la rottura di Kilim. E questo è per parecchie ragioni. Una ragione è creare una certa atmosfera dove l'egoista e l'altruista possono essere mescolati, che possono diventare consapevoli l'uno dell'altro. Come può qualcosa andare dal basso al superiore? Perché è misto. Hai bisogno dell'esperienza di entrambi, altrimenti come puoi fare la scelta? Voglio salire o voglio andare giù? Tu devi sapere entrambi i modi. Tutti i mondi superiori, tutti i gradi dove sono fatti e spezzati. L'un con l'altro. Tutte le qualità erano miste. Naturalmente ogni mescolanza e differenze per darci la possibilità di salire la scala. Ma più avanti ti dirò di più su questo. Lezione 21. Ci sono più donne che uomini nel corso. Io pensavo questa è carenza, ma ora vedo cosa accade al di fuori del corso nel mondo. Le donne hanno una voce al giorno d'oggi. E questo è in conformità alla discesa della Shekhinah. Shekhinah è la rappresentante della santità. Le donne rappresentano Malchut e l'obiettivo è l'abbondanza. Tutto il bene deve scendere a Malchut. In definitiva, gli uomini devono diventare persone completamente adulte. Così possono dare alle donne. Non pensare che io parlo di soldi o di altre cose materiali. Dare nello spirituale ha un altro significato. Nei primi tempi le donne erano oppresse proprio come la Malchut era oppressa. Le leggi dell'universo stanno arrivando più profonde e vengono più in profondità nella terra. E questa è la ragione perché le donne si svegliano. Una delle leggi più importanti nella spiritualità è: non c'è violenza nella spiritualità. Come di conseguenza, alla fine la violenza sparirà qui sulla terra. La violenza è assolutamente proibita qui sulla terra. Gli uomini usano la violenza anche contro le donne, e questo è dovuto alla loro posizione immatura, dovuta alla loro rozzezza. Rozzezza nel senso di non essere raffinati o di non essere corretti. Loro non sono in conformità con la loro qualità spirituale. E le donne non lo accettano questo più a lungo. Non accettano la violenza. E puoi vederlo questo in tutto il mondo, anche nei paesi dell'est. Questa è una coincidenza. Questa non è una coincidenza. Quando Malchut ha potere, la forza di tutte le Malchut spirituali va a Malchut in ogni par suo. Donne e uomini sono entrambi Malchut. Ma considerando le donne anime femminili, sono più Malchut delle uomini anime maschili. Quindi è buono che le donne contestano ogni modo di violenza. Ma il modo femminista non è un buon modo. Perché no? Il femminismo è l'altro lato di devozione. E la devozione non è buona perché questo non è il modo per l'anima di venire a compimento. E l'altro lato sta contro l'uomo, non è buono a entrambi. Anche questa è una reazione immatura. Deve essere una reazione matura. Ogni forma di violenza deve essere combattuta. Deve essere segnalata perché in un certo senso gli uomini vogliono anche fermare le violenze. Ci sarà un momento in cui le donne sono stufe e gli uomini sono stufi. Nessuna donna vuole vivere in questo modo altrettanto l'uomo. Che ci sia ancora violenza è a causa della ragione, che ancora lui non è corretto. Quindi vediamo tutti i tipi di violenza, cioè gli assalti. Un uomo vuole ancora avere potere considerando una donna, e questo è così sbagliato. È contro le leggi eterne dell'universo, assolutamente. Perché è un uomo a dare a una donna, a sua moglie. L'uomo è il portatore della forza di Chassadin, il portatore di Zeirampin. Più tardi impareremo di più su questo. Malchut si mostra lei stessa sempre di più nel nostro mondo inferiore. Quindi anche le donne si mostrano sempre più. Ricevono la forza delle leggi spirituali. Ecco perché le donne sono così visibili al giorno d'oggi. La reazione viene dal basso. Puoi vedere questo come una preghiera, ma è questo dà agli uomini anche l'opportunità di cambiare. In un modo, il tempo è pronto. Le donne richiedono correzioni e gli uomini devono reagire in maniera adeguata. Testo Purificazione interiore. Paragrafo 4. Perché è così difficile annullarti per il Creatore? C'è sinistra, destra e centro. C'è una figura nel libro. Voglio trattare con voi i gradi, i calcoli spirituali, i numeri e tutti i tipi di combinazione con le lettere. Questo ci dà così tante informazioni spirituali. Ari fece solo quattro disegni nel suo libro e ci sono cinque sfirot. Quanti disegni uno può fare? Ci sono gradi da sopra a sotto e da sotto a sopra. Che tipo di preghiera discende e qual è la preghiera che sale? Ci sono così tante cose da scoprire e tutto questo voglio descrivervi. Quali sono i punti di forza, le sfirot, la gematria e le lettere usate? Le risposte devono essere trovate nei libri del Divino Ari e dell'autore dello Zohar. Chi altro può dire di più riguardo a questo argomento? Conoscere Yehuda Ashlag non ha aggiunto conoscere la conoscenza, è meglio. La conoscenza di Yehuda Ashlag non ha aggiunto nulla ad Ari. Per ognuno di noi questo è molto importante, non aggiungere. Ciò che conta è l'assimilazione. Dopo l'assimilazione, l'esperienza arriva per ognuno di noi. Questo è dato a noi. Non è meraviglioso? E tutti noi stiamo provando ad assimilare questo. Può essere che le parole che usa un cabalista suscita in voi qualche resistenza. Forse leggi qualcosa su l'annullarti e pensi, ok, ho già lasciato questo dietro di me. Qualunque sia la tua reazione, prova a cambiare il tuo atteggiamento. Qualunque siano le parole, tutto riguarda i mondi spirituali. Non c'è nessuna parola circa il nostro mondo. È molto difficile per un cabalista, una grande responsabilità. Per lui portarsi più in basso per raggiungere i suoi studenti. Portare giù non significa che lui sia così elevato, ma vedilo in questo modo. Quando lui studia, si attacca con il grande cabalista dal quale sta imparando. Quando inizia a insegnare, lui deve portarsi giù. Questo è molto importante perché uno studente deve capire cosa sta dicendo l'insegnante. E non che lui sente storie meravigliose e non capisce una parola. La domanda deve sempre essere da un punto di vista elevato. Testo. Sapere il motivo perché è così difficile per una persona annullare se stesso per il creatore. Borè è buono. I suoi sforzi devono essere così. Che lui non deve preoccuparsi riguardo se stesso. Lui riceve l'idea che l'intero mondo rimane lo stesso, mentre lui scompare da questo mondo e lascia indietro la sua famiglia e gli amici, mentre lui si annulla per il creatore. La spiegazione per questo è molto semplice e si chiama la mancanza di fiducia. A causa di questa mancanza di fiducia, lui non vede per chi deve annullare se stesso. È da dire che lui non è consapevole dell'esistenza del Creatore. E questo suscita in lui difficoltà. A causa di questa mancanza di fiducia, ora gli viene data a lui la possibilità di farsi piccolo considerando l'intelletto. Il creatore. Cos'è il creatore? Borè. Sai che è la mente superiore. Quando sei preparato ad annullare il tuo intelletto terreno, ancora e di nuovo, per amor della mente superiore, questo causa dentro di te la progressione. In un certo modo tu non perdi una cosa. Tu sei chi sei tu. Come ho già detto, nulla scompare nello spirituale. C'è solo il ricevere di quello qualche extra. Non aver paura di annullarti. Annullare te stesso non significa che devi trascurare il tuo intelletto. Quando dico che il creatore è ogni cosa, naturalmente tu puoi avere i tuoi dubbi. È molto bello avere e sentire dei dubbi perché ora vuoi investigare. Tu approfondisci guardando i tuoi dubbi e questo ti porta più consapevolezza. Tu sei quello che fa lo sforzo perché vuoi avere una risposta chiara, ma dopo questa fase puoi attaccarti al superiore. E questo significa annullare te stesso. Come risultato di tutto questo lavoro ricevi forza. Forza per fare più correzioni. Ricevi una forza interiore, la forza di vivere la tua vita. Questo è quel che intendo con annullare te stesso. Ogni giorno devi sforzarti ad annullare te stesso di più. Quando leggo i libri di Ari, io sento molta forza. Sebbene Ari aveva 38 anni, quando morì, io sento la sua maturità. Questo ci mostra che l'età non è importante. Tutto riguarda per annullare te stesso, per il tuo intelletto superiore, perché un cabalista non dice una parola su questo mondo. Un cabalista non sente la necessità di dimostrazione. Ovviamente i cabalisti hanno la loro propria lotta con il superiore. Solo poche persone, e tra loro Ari, si erano purificate in un modo che non c'era assolutamente alcun profitto personale da trasmettere sulla Kabbalah. Quando vuoi usare il tuo intelletto e provare di trovare qualche logica nella Kabbalah, sappi che ti perderai. Non cercare mai le risposte dentro il tuo cervello terreno. Solo quando connetti te stesso con l'Eterno spirituale, poi riceverai tutte le risposte, anche le domande di questo mondo. Testo. La connessione con la radice, la sorgente, ha luogo solo quando lui diviene consapevole di Borè. Questo è il momento di chiudersi e di annullarsi come una candela per la fiamma. Quindi non ci sono domande o argomenti perché ogni cosa prende posto in un modo naturale. Questo deve accadere anche dentro te. Lascia che prenda posto in modo naturale. Mai spingere o assaggiare più di quanto si possa masticare. Certo, hai bisogno di un piccolo sforzo, ma non troppo. Tu sei in ritardo quando un'emozione come arrendevole o piangere sorge in te. Cerca sempre di essere un passo avanti. È scritto in un libro che l'unico studente di Ari che aveva annotato ogni cosa. Un giorno Ari si colpì le nocche. Perché Ari vide in questo studente che suscitava un po' di rabbia. C'era rabbia in questo studente perché un altro studente non comprendeva bene quello che stava spiegando. Ed Ari gli aveva dato la piena colpa perché lui era errato. Essere arrabbiato o essere furioso è assolutamente proibito. Ogni peccato può essere perdonato, eccetto la rabbia. Peccare significa ricevere in un modo egoista. Quando tu godi in modo egoistico, significa che stai ricevendo per te stesso. Questo è il peccato di cui sto parlando e non quello che gli altri dicono del peccato. Il peccato è quando ricevi e non hai la forza di ricevere in modo kosher, adatto. Significa ricevere in modo altruistico. Tutti questi peccati sono riparabili. Puoi sentire dolore o provare rimorso, ma non per l'ira e rabbia. Per favore, mettilo nel tuo cuore. I peccati più grandi e più miserabili devono essere riparati. Puoi immaginare? Addirittura il più grande peccatore può essere perdonato, ma non per l'ira e rabbia. Perciò stai attento. Attento quando la rabbia sorge in te. Ti senti irritato perché un'altra persona passa la coda proprio di fronte a te? Sii consapevole. Anche quando pensi di stare nel giusto e l'altra persona sta sbagliando. Tu pensi che la tua rabbia sia giustificata? Sappi che stai distruggendo te stesso. Finora hai lavorato così duramente, hai fatto tante correzioni e in una frazione di un secondo è sparito. Tutto perché non ti sei controllato ed eri arrabbiato. Bandire l'ira, bandire la rabbia. Questo è molto difficile. Quello che viene dalla tua mente, fuori dalla tua bocca, lascia che sia puro. Vuoi davvero raggiungere il tuo obiettivo? Sappi che non c'è altra scelta che scegliere per il bene. Certamente puoi avere un momento in cui dimentichi ciò che stai facendo e tu i pecchi. Ma la riparazione è possibile. Solo quando c'è collera, rabbia, il peccato non può essere riparato, qualunque cosa accade a te o agli altri. Qualunque cosa accade a te o agli altri, sii consapevole della tua reazione. Mai permettere che sia la rabbia o la collera. Sei così umano e pieno di giustizie, ma quando senti la rabbia o la collera, sai che tu rompi tutto ciò che avevi accumulato prima. Tu spezzi tutto. Sai quanto sforzo hai investito e quello che hai costruito. E poi improvvisamente in una frazione di secondo è sparito. Questo è ciò che la rabbia e la collera fa con le persone, quindi siate consapevoli. Essere molto coscienti con questa emozione. Io uso parole di questo mondo, ma in questo te lo mostro in un modo cabalistico. In Manuale per la Cabala, paragrafi 2 e 3, puoi trovare il paragrafo 2 nella precedente lezione. Ora continuiamo con il paragrafo 3. Lo sviluppo del Ratzon le Kabel, il desiderio di ricevere, è da sopra a sotto, come menzionato nella precedente lezione. Loro sono soggetti dell'ordine di 4 gradi. In ebraico chiamiamo questo 4 Bechinot. Arbabhinot. Questo ordine è incorporato nel codice segreto delle 4 lettere del nome Boré, del nome del creatore. L'intero sviluppo dell'universo ebbe luogo da questo nome, Havaya, Yud, Hei, Vav, Hei. Quindi abbiamo le Sfirot. Nelle Sfirot troviamo tutti i punti di forza, tutti i processi che hanno luogo dentro di noi, così come nel mondo. Ogni cosa si riflette in queste Sfirot. E impareremo ogni cosa riguardo alle Sfirot. Le Sfirot sono le emanazioni della luce riflessa e incorporata dentro di noi. A causa di questa integrazione, vedrai che la Kabbalah non è morale. Non c'è esperienza di moralità all'interno della Kabbalah. Io parlo solo delle leggi dell'universo. E queste le puoi trovare dentro le sfere. Tu devi solo portarti in conformità con queste leggi. Ma per ora ti sembra come morale? Quando parlo riguardo alla rabbia e ti dico lascia che non ci sia rabbia dentro di te, potresti pensare che sto parlando di moralità. Naturalmente c'è questa esperienza, ma quando cresci, quando hai la fiducia, l'esperienza. Vedrai che non è una qualità, ma qualcosa che ti dà la vita. La vita eterna. Razzolle capelli, il desiderio di ricevere, questo è quello che è creato. Questo è ciò che chiamiamo Kli, il desiderio di ricevere. È la luce or ciò che riceviamo. Ora Kli, questo è tutto. C'è luce, è il ricevitore della luce. E tra loro si vedono parecchie relazioni e queste sono chiamate cinque sfirot. È il quarto sfera? È il quarto sfirot. Ha in sé sei sfirot. È il quarta sfera. Sfirot ha plurale, ma è il quarta sfera. Ha in sé sei sfirot. E allora noi parliamo di 10 sfirot. Ma effettivamente ci sono 5 sfirot, 5 stadi. Stadi. Come? Noi li impareremo. La luce e il Kli sono indubbiamente connessi l'uno con l'altro. Insieme loro scendono dall'alto in basso. Or è l'irruvidimento di Or. È questo irruvidimento è chiamato mondo Olam, mondo o Olam nell'ebraico. Ora e Kli insieme, entrambi scendono verso il basso. L'irruvidimento forma un Kli, e all'interno del Kli c'è una luce superiore, più raffinata, e queste due insieme sono l'anima. Un'anima è un Kli dove è incorporata la luce. Noi parliamo solo riguardo un'anima quando il Kli, che è il ricevitore, ha la luce dentro al Kli. O quando il Kli ha un Masach. Questi due discendono insieme al basso sempre e discendono da un grado a un grado a un grado a un altro grado. Il superiore è il più sottile, è più raffinato e quando è più basso, è più grezzo. è più una persona è egoista. Questo è ciò che scende, il grossolano della luce insieme con la luce. Finché loro arrivano alla fine di un luogo e non c'è più discesa possibile conforme al piano di creazione. Allora questo razzo le cabelle. Desiderio di ricevere è abbastanza a creare un essere umano. O in altre parole, questa è l'esistenza dell'egoismo assoluto o del desiderio completo, perfetto di ricevere. C'è un'altra parola importante, correzione. Correzione, e in ebraico questo è tikkun. Prima c'è la discesa al basso, nel luogo dove uno può arrivare completamente indipendente dalla luce. Solo da questo posto inizia l'ascesa. E questo posto ha il nome del mondo Olam Asiya. Olam Asiya è un mondo spirituale, è il nostro mondo, è l'ultima parte di questo mondo. Viviamo in un mondo non spirituale. In un mondo materialista puro. Per favore, porta nella tua memoria. Non stiamo parlando del nostro mondo, è una condizione. Parlo sempre dell'essere interiore. Faccio uso delle parole di questo mondo, vi do esempi di questo mondo, ma in sostanza io parlo solo circa il mondo interiore. Posso darti un'immagine di Asia? È solo una questione di esperienza. Asia è la più bassa esperienza spirituale. Lei è la luce più grezza dentro il nostro mondo spirituale. Il nostro mondo spirituale è Olam Asiya. Lei è la connessione tra le forze spirituali e noi stiamo vivendo nel nostro mondo materiale senza questa connessione. Ognuno di noi deve venire prima o poi a questa connessione. Ognuno di noi arriva a un momento dove lui ascende, dove può elevarsi. Solo quando lui realizza di essere arrivato al punto più basso. E da quel momento inizia ad ascendere. E questa ascensione è ciò che chiamiamo vita. Torniamo alle quattro lettere del nome del creatore, Yud-Heh-Vav-Heh. E noi pronunciamo questo Havaya. Usiamo questi nomi in questo modo, questo nome, per non usare il suo nome invano. Pronunciamo Havaya. Quindi diciamo Havaya. Quando guardi attentamente alle lettere, tu vedi l'ordine delle lettere è diverso. Ma queste quattro lettere sono molto importanti, con loro tu crei un posto dove puoi sperimentare. Ogni cosa è nascosta in questo nome Yud-Heh-Vav-Heh. In Kabbalah vediamo questo nome come lo scheletro di tutto ciò che esiste. Queste sono le lettere dell'Eterno Nome. Esse sono la qualità del dare. E l'universo è stracarico con questa qualità grazie a queste quattro lettere. E queste quattro lettere sono in accordo con le 10 Sfirot, le 10 emanazioni di luce. Puoi vedere queste quattro lettere come una matrice. E ora ho intenzione di discutere questo con te. Questo è il luogo vuoto dove io già parlai. E da questo luogo vuoto la luce si era ritirata in sé. Poi ho detto che c'era luce dappertutto, che la luce ritiratasi da un luogo centrale. E questo luogo è chiamato il nostro mondo. Per prima si è ritirata e poi la luce ritornò solo poco a poco. Ho confrontato questo con un rotondo da vedere come una palla vuota dall'interno. La luce ritornò solo a poco nella forma di un raggio piccolo dentro questa palla vuota. È tornato al centro. E questo centro è lui, creatore. E la terra è in questo centro. Questa è la situazione più rozza. Come possiamo guardare a questo? Non vedere questo come un cerchio, ma come una palla. Ovunque è luce tranne qui. Quindi è il posto più rozzo nell'universo. Prima c'era solo luce e improvvisamente la luce si ritira. Ma prima che la luce fosse ritirata, c'era luce dappertutto. Da tutti i lati solo luce. Ma ora la luce ritorna da sopra all'interno, al dentro. E questo è il soggetto del nostro studio. Ci accingiamo a studiare questa luce. Ci sono 5 gradi di irruvidimento, 5 mondi. Questa luce in entrata la chiamiamo la luce diretta o Yashar. Questa luce entra grado dopo grado e allo stesso tempo la luce rotonda ormativa e attiva. Ma questo non è il soggetto del nostro studio. La luce rotonda è non orma che è un qualcos'altro che orma kif. Ma o la luce rotonda, orma kif, non la traduzione del luce. E non l'ebraico della luce rotonda. Questa luce rotonda non è così importante per noi. La luce diretta Oryashar è importante per noi. C'è la luce che viene al centro. E qui, in questo centro, è l'inizio del nostro mondo. Quando dico il nostro mondo intendo l'esperienza, la condizione del nostro mondo. La parte più dura è una parte della natura stessa. Dentro la terra c'è il magma. Anche questa è la parte più dura dentro la terra, vista da una posizione più elevata. In nessun luogo nella creazione c'è una creatura che ha una relazione così intima con il creatore che noi abbiamo. C'è l'esistenza della parte senza vita, il regno minerale, la parte vegetale e la parte animale, e l'uomo è solo qui sulla terra. Prima abbiamo il mondo di Adam Kadmons, seguito dal mondo Atzilut, Bria, Yetzirah. E ultimo mondo è Assia. Tutti questi sono sopra le sfere di cui siamo fatti. Passo dopo passo imparerai. Siamo la continuazione del mondo Assia. E questo è il soggetto del nostro studio. Studiamo la via da sopra a sotto. Così poi tu conosci la via e tu puoi seguire questa via di ritorno da sotto a sotto.